mai tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Sì, sono proprio contenta, Peninetta, guarda. E anche a me sono proprio contenta. Puoretta la mia cognata, con tutto quel che l'ha capatio. Zitta, va, non me lo dire manco. La lavora come una mula. Ma davvero proprio, sa. Le resta orfana quando che sarà piccoletta. Pure sta cosa brutta, sì. La tira su tutti i suoi fratei. E mica solo Elisei, Pure che gli padre ha tenuto insieme alla madrigna. È stata disgraziata. La trattava anche male. Disgraziata. Ha come una pezza da piedi. Pure fia, sempre a lavorare in mezzo alla campagna e anche in casa. Slevare i fratei. Una santa. Mario, e mi diceva sempre che senza sua sorella egli sarei morto di sicuro dalla febbre gialla. Ninetta e Mario, e si voleva davvero un gran bene. Ma solo, erano culo e camicia, stavano sempre insieme. Quando essa se ne è partita per l'America, a Ninetta sembrava che c'erano strappate gli cori. Era sangue suo. No, sangue appiccicato. Anche io, senza sua sorella. Ma essa... Te sapessi quanto che il capatio. Essa, che ne manca era finita la seconda elementare, perché la matrigna non la faceva io alla scuola, che teneva da fata serva essa. Si è imparata a leggere e scrivere, sa? Da soia? Da sola, sì, ma... ecco, ci stava sta maestra che l'ha aiutata, perché se l'era presa a cuore, che ci faceva pena. Oh, ma guarda che Ninetta è intelligente forte, sa? Lo so. E mica come gli altri paesani nostri, sa? Essa sa struita, no? Ninetta ne la conosce proprio l'ignoranza degli altri. Se sta un peccato mortale la sarla senza istruzione. Secondo me, le lettere che la scrive, i che le detta direttamente gli angeli. Ma davvero proprio, sa? Quando che sue lettere arrivava in America, mi diceva mio marito, ma tua sorella, gara studiata ai monache, a sei massa brava. E io mi diceva anche quelle robe là, sarà gli angeli che le dettava. Gli angeli, sì, ma pure la Santissima e pure la Madonna. Anche a San Rocco. E pure San Rocco. Certo che, se Ninetta non fosse rivista gli frate prima che se muoreva, se sarei morta pure essa, appressa essa sicuro. E anche io. Quando i dottori che ha detto che sarà di morire, il capo suo torna subito in Italia e voleva vedere sua sorella prima di morire. Certo che pure per te non ti è stata proprio una cosa bella, beh. Lo sta a farmi pensare. Te ne sei dovuta venire dall'America per sta mesa sta gente ignorante e puraccia quando te ne potevi sta loca a fa la signora. L'amore, Celeste, l'amore. Mi sono tornata subito in dro con Mario, che volevo massa ben. E poi là, a New York, mi giro da sola. Qual manco che trova l'amore della mia bella cognata, la mia Ninetta. Ma dimmene poco, Marie. Ma ti l'America proprio non te manca. Sì che la mi manca, guarda, se non fosse per Ninetta... Se non fosse per Ninetta. Se non fosse per Ninetta, sempre qua te ne vi tassa. A do io, se no. Guarda che son mi che voglio star qua. Gariappo suo sposarmi quando che volevo. Emo. Oh, avevo tanti spasimanti che mi voleva sposare. A do che non gli son mai visti. Ma non ti ha visti, no, in America. Altro che sti quattro pecoroni. Questi che sei giusti partiti. Oh, ma come stai a dire che sono una zitella vizzoca? Va ben che ti sia ancora giovanota, ma sposa, non te che mai sposa. Sì, te sposerà anche a te. Dai, Celeste, sorry, non ti ho detto niente, su. Sì, sorry. No, ma chi se la piglia? Io però una cosa te la voglio dire. Noi staremo pure con le pezze in gemma agli cule. Però siamo brava gente onesta, lavoratora, e pure timorosa di Dio, gente semplice, che non s'abbanta. Ricordatello. Sì che mi ricordo. Mi sono una femmina del mondo. Mi sparlo, cioè speech, tre lingue. Veneto, italiano e anche l'americano. Ma sono sempre modesta e semplice. Guarda che pure ero brava, sa. Sono fatto due della quinta elementare. Ma mica potevo ir agli paesi foresti per fare la scuola più annanzi. Tenevo gli quattrini. Io mi sono istruita, però parlo due lingue. Saccio gli sociar e l'italiano. E non è per avanto... È così. Brava, complimenti. Complimenti pure a te. Ma che è tu finito? Ah, finito, ok. Ninetta? Nine, siamo finite. Ninetta? Su, Nine, che ti devi provare, su. La mia Ninetta. E se la sposa. Evviva. E se la sposa, essa. Oh, ma già gli siete finite. Subito. Una fulmine. Ma che bello, ma grazie, amica me. Che si è bella, Nine. Mi manca da se la riconosce. Grazie, ce l'è. Ninetta, te sei sempre più bella. Grazie, Mari, grazie, ma oggi mi sento bella davvero, non per finta. Te credo, te si devo sposarte. Ninè, mi pari proprio la regina quando sei sposata. Emo, ma che mi stai piando, scema ce l'è. No, è vero. Se è vero, guarda, ti si compagna a Edda, a Fia del Duce. E allora so pure meglio. Ma ve la ricordate com'era foto, bella quella foto che siamo viste in cima a quella rivista? E in fior, manca a te, eh. Bella la mia cugnata. Bella essa. Ninetta, Anch'io non voglio vedere neanche una lacrima, neanche una. Te devi essere contenta. Nene, ti sposi. Isso stava pure bene, ma dove ti chiudo la vita? Io ne vedo l'ora che mi sposo e biada a te. Ma prima o poi pure tu, ce l'hai pure tu. Sì, speriamo. Dai, su però, e oggi è il giorno tuo, sei tu che devi essere felice. Oh, e figurasso che non manco so felice, ma come, ma ci voglio pure bene, ma guai a chi mi gli tocca. E poi isso è pure cittadino, non ti ha nemmeno chi zappa la terra, che ti stai a scuscina come una mula abbia di lavoro la terra. Altro che banca e serecchia. E viva la sposa. Sì, però mo isso parte, va combattere per la patria. E allora ti so scrivere lettere d'amore. Già te le scrivi per tutto il paese, Ninetta a poetessa. Ninè. Sei fatta felice una sacca di gente con le lettere tue. Senza e ti qua, nessuno si cavaria a sposare. Nene, mannaggia. Ma te li ricordi a Francesca quando si veniva a far scrivere le lettere d'amore per la fidanzata sea? Ma che curioso. Oh, vergognoso quanto a che. Ma te li ricordi che veniva tutti i giorni per farsi scrivere la lettera? E veniva sì, e veniva partì. E a forza di ascoltare le tue belle parole e se ganna morale ti. E mo te si sposa pure. Però puraccia che la mano pochetto mi dispiace pure. E perché? E magari rimane pure Vizzoca. Nene, state serena che ecco Vizzoca non ci rimane nessuna. Beh, dipende dalla volontà di Dio. E appunto, mica Dio vuole che qua rimaniamo tutti senza gli mariti, no? Ninetta, Francesco te vuol bene. Non sta a piangere, dai. Nene, gli duce ditta che chiamo e vinciamo subito, subito. Sì, se torna, no? E se lo ha detto il duce. Su. Su, iamo, Ninè, che qua te devi da sposà. Iamo. A Santa Maria Santa, prega per noi, amorata. Sì, lo voglio. Evviva! Proprio un bel matrimonio. Ibia, bellissimo, mi sono proprio divertita. Te l'ho visto, sì, e anche agli altri. Ma chi? Torre Cicca Pazza? Ma che si scema? Non si ha mai per la miseria che chi gli ha mi? Ma pare una scigna, mi pare. Oh, guarda che io sono una bella bardascia, sa, mica so d'età. Tu piuttosto ti sei fatta guardare da tutti gli uomini. Cosa posso far se tutti mi guardano? Ma io non voglio nessuno. Mica ne avevo uno. Ma adesso mia Maria sta a Camposanto e adesso Maria la deve stare da sola. Brava Maria, tutti la vogliono e nessuno se la piglia. E viva! Da Simona, ti disturbi sposi. Ah, ma perché? Se ne sono i di già alle camere. Beh, come tutti quei che si sposa naturalmente. E poi? E poi che? E poi che succede? Quello che deve succedere. E che? Oh, non sta a me rompere bare. E beh, che ci fa? Guarda che sembrerò stancarmi con tutte queste domande. Marie, ma è vero che tu si è fatta la fuitina? Sì. E su, raccontamella, no? Mario è il mega rapio, è il mega butta dentro una stanza par d'odintieri. Sì. E poi? E dopo seguiamo sposà. No, Maria, che si è fatta con questo dentro la camera. Io non mi ricordo. Guarda, si è passati tanti anni. Ma come non te li ricordi? Oh, prima se già era amorosi. E per quanto? Tanto. E quanto? 2 mesi. Già eravamo innamorati persi. Chiamo continuava a guardarsi per tanto tempo. Mario lavorava nella bottega vicino alla fabbrica dove che lavoravo me. Poi se che avevamo fidanzato. Oh, è sempre stato educato. Ah, davvero? Sempre. Vabbè, ma mica mi frega di queste cose, di sapesse cose, scuse. Ma stai serena, e andite a scoprire anche a te, uomini. Basta che non ti resti vedova e senza fiori come me. Oddio, non sia mai per la miseria, allora mi faccio monaca. Sì, sì, brava, fate monaca, tanto te pare sana monaca. Sì. Ah, sì, prego per te, propria, sta cosa scema. Vedi se ci prego per te. Io prego solo per Ninetta e per la famiglia mia. Tu, ci preghi tu per te. Non sta a preoccuparti, che a Maria, Giga sempre pensa a Maria. Se ne è ito, è partito. È ita combatta per la patria. E torna, te vedrà che torna. Mo so vedova pure Maria, prima ancora resta sposata. Non piagni, Ninè, che se no mi mette a chiagni pure. E Ninetta rimane a faticare in mise gambe a comba prima. Solo che mo te la fede al dito. E insina una foto di Francesco suo con la divisa. Ti vedrà che torna da eroe. Ma che mi frega a me se torna da eroe da vaglione a come gli altri. Ma basta che torna, no? In pella matassa, su, che te ne manda la uracqua, Io ma lavagli panna di fiume, su. Andremo, così coi lacrime te lavi i tuoi lenzoi. Ma Celeste? Ma che tu preparare la scia? Sì, Mari. La tenimi da preparare tu? Pure se la so preparata io. Giusto per Ninetta, guarda. Oh! Qua la terra è la mea, Tu sembra a servizio da me stai, Sì, parona. No, ma su, amo, ma state sempre a litigare. Ma cicco mi tocca, toccami cicco. Padroni e no. Ma tanto stiamo sempre tutti quanti a lavorare, signore e puracci, boh. Per Dio, siamo tutti uguali. Ma solo gli vestiti sono diversi, ma se no, ma chi ne capisceva? Ma su, ma continuiamo a lavorare, va. Che Ninetta, siete da lavare le lenzuola di lino con le lacrime sue. Ninetta amore mio, amore, amore, vado a combattere in Francia a fare il soldato. Povero amore, chissà che ne sarà, vado a combattere in Francia, ho perduto la libertà. Ninè, oggi che poesia c'è scritta l'amore tuo? Dai, fanne sentire. Francesco mio amato, sono passati 9 mesi da quando sei partito. In 9 mesi nasce una vita, per me la vita si è interrotta senza di te. Guardo le nuvole e mi sembra di vedere il tuo viso dolce. Guardo le stelle e mi sembra di vedere i tuoi occhi. Sento il vento e mi sembra che porti la tua voce lontana che mi dice ti amo. Te ne sei andato quando cadevano le foglie dagli alberi, poi è arrivato l'inverno e la neve è scesa sulle montagne come sul mio cuore, amore mio. Ora la terra rinasce, è primavera, ma sul mio cuore rimane il gelo dell'inverno, perché senza di te non sbocciano più le rose. Tua amata Ninetta. Che bella, Ninè. Bella, sì. Speriamo che questi fiori sboccerà per tutti, perché sta malaria, la si devo portarsi tutti al Camposanto. Sti fiori sboccerà quando che sarà finita sta guerra. Speriamo. Ma almeno non stanno a combattere qua da noi. Pensa a chi gli poracci che tengono alla casa loro i soldati che si ammazzano. Ma zitta, ma che cose brutte. Ma ringraziamo a Dio che la guerra la stanno a combattere lontano. E preghiamo per non far morire tutti sti soldati. Il chinino, il chinino. Oddio, madonna mia santissima, pigliatela tu! Celeste, c'ha per chinino, non sto per la putea, te sei una femmina grossa! None, levate, none! Celeste, para brava! Ninetta, ciapala! Ce l'hai, sui! Oh, ma ancora sta attaccata la sizza di mamma! Pigliatevegli voi, ah! De sicuro mi o togo, non voglio mio morir! Ferma, ce l'hai, su! Ma pigliati di chinino degli tuoi, ma su, ma se no ti muori di malaria pure tu come assorba! None! Essala! Brava, brava così, sì, essala. Brava, butta su, butta su! Sdreusa! Prego, Celeste, educata come sempre. Sdreusa! A dove, Cele? La vado a sputare il fiume! Maledetta cagna! Mari, lascia la perde! Peggio PS, è che la teniamo raccito noi! Cagna, te sarà tia striga! Oh, che porcaria, oh, eh! Amaro. È come un chinino! Però, Mari, ma guarda che bel cielo che ci sta oggi! Oh! Oh! So viste gli banditore! So viste gli banditore che dite? Che te n'ama da fa? No, che te n'ama da loro per la patria, ecco. E allora? E allora, Mussolini dite che alla patria ci si deve da loro per far combattere gli soldati, perché è sì. Che mi ho da a me loro, altro che alla patria, perché mi de oro, no che no. Oh, io ci sono data la catenina di mamma mia, Sono fatti i doveri miei, sa? Sema! Sono fatti i doveri miei. E io? E ti niente, Ninetta, te sei una puaretta. Veramente, le femmine sposate ci stanno a dare la fede loro. E loro ci danno la fede di ferro in cambio, ecco. Mai! E il mio caro Mario? Ma io tenga sola che essa! Ma una puraccia con mamma mia, ma non gli diegli i gioielli, no? Ma io prima di questa fede non era tenuta mai niente d'oro. Ma chi l'era mai visto? Povera Ninetta. Pure che essa ci mancava. No, la mia fede mai. Mi assistemo sul petto e qua resta. E anche a te in età fa così. Marie. Marie è per la patria, oh. Ma è per salvare la vita agli soldati. E me sai se c'è sta pure Francesco me. Ma che patria in patria? Dove sei la patria par Maria, vedova? Allora non che sarà niente e nessuno. Eccola la patria Maria, eccola. Sommi la patria di Maria. E il suo cuore è la patria sua. E questa fede l'ha messa qua al cuore di Maria. E qua resta. E basta. È questa la patria di Ninetta. È la terra la patria. Amore mio adorato, questo è il pegno del tuo amore. Per comprare questa fede tu hai speso tutti i tuoi denari. Io non ho niente, è questo il mio unico tesoro. Ma non perché è d'oro, ma perché fosti tu a mettermelo al dito. Lo dono per te, per la tua vita e per la terra. Da oggi il pegno del tuo amore sarà il mio cuore. All'acqua, all'acqua, all'acqua, all'acqua, all'acqua, all'acqua, alla fontana no voi là. Parla, parlo in là. E mentre gli ragazzi parla, parlo in là. La conga gira e gli sorelle balla. Ne cade ne ne ne, ne cade ne ne ne. La conga gira e gli sorelle balla. Ne cade ne ne ne. E falla essere felice, che da essere felice ci sta proprio a poco, eh? E che se poco sì. E manco mal che sta guerra doveva finire presto. Ma sei arrivata fin qua, a casa nostra. Ma la Santissima mi era detto che si finiva la guerra, ma mica quando si finiva la guerra? Pazienza, coraggio e preghiamo. Oddio, so visto Sarocco. Oddio, Sarocco mi... Ma dove? Si sicura che era Is? Sì, teneva gli cani con la ciambella. Allora era Sarocco. E cosa te caio dito? Niente. Ma come niente? Niente. No, non mi sono proprio piaciuta, ce l'è. No, gli potevi chiedere che cosa? No, non si fa così. Te potevi domandare anche quando che finisse sta guerra. No, non si fa così, no, si è proprio sbagliato, ce l'è. No, è buono, ma io mi sono vergognata, lo sai che sono vergognosa, ma mi pareva brutta. E poi essa a me ne mi ha detto niente. Ne manco con la capoccia. Sì, con la capoccia ha fatto un segno così. Cosa vuol dire? Non so sicura, Però mi sa che significa che gli tedeschi ci stanno qua per un altro po' di tempo. A manco vuol dire che non morimo di fame. Allora vuol dire che gli tedeschi non se ne vanno. E che sta guerra non la finisse. Ma però è stata già una grazia che gli tedeschi hanno messo la cucina per gli soldati proprio qua a casa nostra, no? Ah, oh, ma sono mesi che stanno a combattere a Montecassino contro gli soldati. Ma fino a quando stanno a combattere, almeno noi non ci moriamo di fame, no? Gli altri sì che si stanno a morire di fame e di malattia. Dalle parti di Cassino la gente si muore, mica solo gli soldati, sa? Gli soldati si mangiano la roba nostra e noi ci moriamo di fame, no. Non si può manco bere l'acqua degli fiumi perché è china di morti e di sangue. Noi almeno non ci potremmo proprio lamentare. No, che gli tedeschi con noi sono bravi e rispettosi. E ci danno pure una sacca di roba da mangiare. Sì, bravi, educati. Oh, non toccano una femmina, ne manca uno spillo, sa? Che con tutte queste femmine sole, esse potevano fare quello che ci pareva a loro, sa? Un masule. E poi sono pure belli. Belli. Angeli. Mori, ma tu li capisci gli tedeschi quando parlano? Mi capisco quando che mi hai dato a mangiare. Allora sì che capisco. Mori. Tu che si viaggiate, no? Ma gli tedeschi sono come a noi? Cagano come a noi? Ma paese uomini. E gli uomini, i seduti compagni. Dai, Celesti, corri a guardarli al pozzo, vai, corri, i sedono a lavarsi, vai. No, no, ce l'ha, non vanno scostumare. Giusto un attimino, Ninè. Oh, so proprio come a noi. Ma sta cosa scema. È brava, Celeste. Mattino, Celeste, i capisci tu tedeschi quando chi parla? Perché? No, perché te ho visto parlare tanto con Fritz, qui o alto. Beh, che ti importa a te? Ah, niente. Dai, cosa ti caio dito? Ma niente. Ma dai, Celeste, ma che ti hai detto? Mi ha detto che mi vuole bene e che mi si vuole sposare. E quando si finisce la guerra, mi porta questa alla Germania. Celeste, la sei innamorata. E tu ci vuoi? Sì. Io ci voglio proprio bene. A Fritz. Voi chiamate lo creatore, ponete mente allo mio dolore. Di riva, per terra, di riva! A terra, a terra! Che cosa nasconde? A tratti manco se la dono le stelle! Sta guerra non la finisce più! Se motivo morire di fame e di bombardamenti! Ma i tedeschi, noi c'era bravi e buoni, adesso sembra dei diavoli, i sei cattivi. Non è colpa loro, mo gli italiani stanno con gli alleati, mo italiani e tedeschi sono nemici. Ma allora mo, cioè Fritz siete nemici, allora mo Issa non ti vuole più. No, Issa a me mi va bene, Issa dite che non va combatte più, basta, se ne vuoi con me, ce ne andiamo all'America e là ci sposiamo. Ma così lei diventa disertore e se lo ciapa e lo copa, dai lascia perdere. No, no ce ne scappiamo, moglie Issa, in cima alle montagne qua. Muovi pure lui, è qua, lo sa che siamo qua. Ma sei pazza! Sì, la sei mata, la ne fa massare tutte quante le tedeschi, la mata. I ven qua, i fusila io e anche noi altri. No, non ce ne amo, capito? Matta! Sì, so pazza, vabbè. Allora perché gli stanno grano me? Non lo saccio. I gaffinio de bombardar. Ma che è sto rumore, mo? Mi sa che Issa che sta arrivando. Ferma. Sei pericoloso andarla su. Oh, ma se sento parlare tedesco. Ehi, lasciatemi andare su. No, aspetta. Sì, sono tedeschi. C'è sta pure Fritz, ma sta legato. Oddio, Fritz. Ferma. Oddio, Fritz, lasciatemi perdere. Ferma. Ce l'hai. Oddio, ce l'hai. L'hanno fucilata. Sei morta. Ce l'hai sta. È finita. Finita. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, am. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris in nome sa Gesù. Santa Maria, non mi saccio morire. Ah, ma sta zitta, ma perché mo è venuta sta fantasia brutta? Perché la guerra c'è brutta, e pure assai. Ah, se brutta sì, se potremo morire tutti. Pregate, prega, ce l'è, prega! Che il cuore suo sta bella da essa sotto, prega per il cuore suo, prega per l'amore tuo! Sì, ci prego, Pissa, ci prego! Lo so pigliato con le mani, lo so pigliato. Lo so raccolto con le mani me, sto cuore. E chi se lo sarebbe mai crisa? Che Celeste teneva tutta sta forza. Brava Celeste, ti sei stata coraggiosa. Coraggio anche adesso. Coraio Celeste! Me l'hanno accesa come una bestia. E poi, tutti quegli tedeschi morti li hanno messi in cima alla strada. E in mezzo ci stava purissa. E poi, ci sono passati in cima con gli carri armati. Statto zitto, Celeste. Statto zitto. Tutti quegli uomini morti. Tutti quegli corpi rovinati, tutto sangue. Sì, ma il suo cuore è qua. Tutto gli sangue. E se qua, ti ghiò messo ti. E adesso basta. Prega. Preghiamo. Sì, sì. Issa sei morta. E mamma moro pure io. Ma io sono troppa giovanotta per morire, eh? Che c'entriamo in quella guerra, eh? Siamo gente ignorante. Sappiamo solo zappa la terra. Che c'entriamo noi femmine con la guerra? Non lo saccio, non lo saccio, ce l'è. La guerra le fa gli uomini. E le femmine la sopporta. Le femmine, nelle guerre, le muore basta. Coraio Celeste, mi non voglio morire, mi voglio vivere, vivere! Vive, ce l'è, vive, sì, ce l'è, non ti muori, no, stato buona, ce l'è. Non ti muori, ce l'è, no. Moro, ma moro. No, ce l'è, non ti muori, no, no. Vivere. Stato buona, no, no. Ma moro! No, no, ce l'è, no. Là? No. Là. No. Ma sa che era là. No, là. Era là. Ma qual è la casa mia? Ma qual è? Boh, io me la ricordo che stava là. Io non lo capisco più qual era la casa mia. Ma il paese mio, ma qual è? Ma è tutto distrutto qua, ma non ci sta più niente. Ci sta l'inferno qua. Ma perché? Ma perché sono venuti a fare la guerra? Perché i soldati fanno la guerra? E mo sta terra distrutta, ma che se la fanno? E gli soldati nostri allora per le altre parti, ma che stanno a fa'? Fatti coraggio, Ninè, fatti coraggio. Perché l'anima non muore. Non sta a guardare, Ninetta. Non sta a pensare. Meglio se te ne conti una storia. Sì, Ninè, racconta. Tanto tempo fa erano gli tempi antichissimi. Per sta terra gli uomini vivevano felici e senza guerra. La terra era di tutti. E per i fiumi scorreva il latte col miele. Oh, dicevano che era l'età dell'oro, eh. Costruivano mura antichissime per gli dèi. E poi arrivò in Miesais la guerra. E si è finito tutto. E perché? Perché sarà uomini. Sì, ma perché? Ma pure Dio è maschio. Sì, ma... però, la Madonna però è femmina, vedi? Sì, ce l'è. Ma è uguale per tutti la guerra. Dai, non stiamo a pensare a ste robe brutte. Cantemo. E mi... me ne sondavo onde che feva i goti giocando la spineta agli altri giochi, mi goda le fugase de quelle de marghera, ho camminato per terra fino a Fusina. Nini, quanto vai? Gli si è sentito? Che? Ma non gli si è sentito. Ma che? Giù a ballo che cosa è successo? E perché? Perché Stonga senti un sacco di gente che urla e che ride. Ma sei tutti contenti che i tedeschi si devono andare via? Sì, Marie, sono contenta pure io. Ma i tedeschi se ne stavano già lì. È da marzo che se ne stanno lì. Da quando hanno bombardato a Monte Cassino, San Benedetto mio. No. Ma ti deve essere successo per forza qualcosa. Anche amico ho sentito. È forte. Iate a vedere. Vien. Iate, come vengo. Oh, ma qua stanno a festeggiare! E allora? Ma allora sono arrivati gli altri alleati! Oh, Mare Santissima! Oddio, allora se sono arrivati gli altri alleati! E la guerra si è finita! Oddio. Ma Santissima mia, mi sei esaudita! Grazie, madonnina mia! Si è finita la guerra! A davvero, Ninè? Sì, sì, si è finita a davvero! E allora a davvero non mi moro! No, siamo tutti salvi! Siamo tutti salvi! Finita! Adesso potremmo scominciare la nuova vita. Grazie, Madonnina, grazie. Ma speriamo, ma li speriamo, ma mi sento proprio felice. E anche a me, Ninetta mia, anche a me. E allora andiamo, caliamo giù da sta montagna, andiamo a festeggiare. Andiamo a togliere le margherite, sì, ma andiamoci a portare le corone di fiori, che chi sti sono liberatori. Sì, andiamo. Aspetta, Se meglio controllare bene. Mi non mi fido dei soldati. Prima controllemo e dopo i fior. Ma suiamo, ma che... Ma... Marie... Oh... Ma questi sono... americani... inglesi, francesi... Ma con noi sono stati rispettosi pure gli tedeschi. I se trovi in arsù. Ma non mi par soldati. Noi che neanche hai divise. I porta... una tonica... barrette foreste... i canei al naso... capi lunghi, recini... I par strassoni. No, no, mi voglio andare via. Scampemo, demo via. Meglio festeggiare un'altra volta. Ma perché? Ma perché tutte le femmine sentono scampare. Ma che sta succedendo? Ma adesso che se? Che se sono femmine che stanno urlando? Che se noi siamo liberatori, andiamo via. Ma andiamo a vedere se teniamo l'aglio da cacchetuno, no? No, scampemo in inerte. Ma ne facciamo come dicesse, andiamo cenne. Ma andiamo a vedere, santissima mia. Se sta a finire gli murna, Ninè. Ninè, che fa? Ninè. Erano credute che le poveracce che erano arrivati gli liberatori ci levano incontro con le corone di fiori e chi si le pigliavano e se le violentavano. E le violentavano. Se pigliavano le ottarelle. E le violentavano. Se pigliavano le vecchie. E le violentavano. Se pigliavano i ragazzini. E li violentavano. Si pigliavano gli preti. E li violentavano. Si pigliavano gli animali. E li violentavano. E gli uomini nostri che ci volevano difendere. Gli accidevano a comma alle bestie. I liberatori. Le montagne urlavano le donne, erano mille e mille pure più, erano tutte o quasi pure più, per 10 giorni, 1000 anni e pure più. I liberatori, i liberatori. Noi stavamo aspettando i liberatori. Sono i marocchini, i soldati degli francesi, sono gli alleati. Eppure loro a violentare. E chi ti difendeva? Gli tedeschi. Ma chi sono i nemici? E moste donne chi le vo? E moste femmine, ma come fanno a campare? Tutte le montagne urlano pure mo. C'è rimasto l'eco delle urla delle marocchinate e forse ci rimane per l'eternità. Se sono pigliata che l'utra. E l'hanno violentata in 200. Non teneva manco 13 anni. E che ladra. L'hanno legata sulla via e l'hanno strupata tutti quelli che passavano. E a Natra l'hanno crocifissa. Le mamme facevano da materasso alle figlie quando le violentavano. Chi sei demoni? Sono soldati degli francesi. È stato il generale loro che ci ha detto di fare come ci pareva. Ma violentà. Ci stavano tutti gli alleati. I puro certi italiani, ca. E gli tedeschi che hanno accise perché volevano difendere a noi, mentre gli americani, gli inglesi, se ne stavano a guardare senza fa niente. Tante le sono morte quando che le violentava e mentre le pativa le pene dell'inferno. Tante glielo tiene nascosto. Noi siamo tutte malate. Teniamo tutte le malattie che ci hanno attaccate gli marucchine. E quelle che sta sono pazzite, e quelle che sta sono ammazzate. Mo ci moriamo ad avere. Mi sono morta. No, Ninetta mia. Non mi hanno acciso. No, figlia mia. Era meglio che me murevo, perché la vita non è più legittima. Ma che venne fatto a voi? Quello che hanno fatto tutte. Siamo tante. Migliaia in neanche 10 giorni. E ne ha fatto quello che fa tante femmine quando chiese la guerra. E dopo nessuno paga. Paghiamo sol che noi altre. Tutti ne chiama le marocchinate. Un poco par pietà, un poco par vergogna, un poco par schifo. Voglio dimenticare tutte ste violenze. Io pure me lo voglio dimenticare. Ma mi sento assì zozza. Io me lo voglio scordare, ma me li vedo davanti con quelle facce indemoniate che urlano e che puzzano. Nine, io a te ti voglio bene come a una sora, ma mi tenga da fa tutto un coraggio, ma non ce la faccio. Alle marocchinate non se la piglia più nessuno. Io non so tanta coraggiosa come a te, come a Maria. La faremo tutte e tre. Deve passare la notte. E prima o poi anche al dolore il passa. Io sono incinta. Me l'ha detto il cuore. Non puoi tenere sta creatura dopo sta violenza. Ma chi? Gli figli degli marocchini, Ninè. Non lavò nessuno, una femmina strupata e pure malata. Lascia perdere. Sta brutta cosa se la vogliono dimenticare tutti. Ma sta creatura è pure la mia. Ma che c'entra con la guerra, eh? È innocente come a me, come a Maria, a Celesta. Io pure me le voglio dimenticare queste cose brutte. E quando domanderà chi è suo padre, cosa gli risponderai? Che non lo saccio. Che è figlio mio. Che pure dalle sofferenze può nascere l'amore. Perché quando ari la terra e poi ci dà la semina, poi succede che in mezzo alla semina ci scappa un'altra semenza. Ma poi, quando i semi si sono fatti frutti, capisci che pure quella è vita. Ma quando in cima alla terra ci butti il sale, che sta si fa sterile. Io ce lo voglio togliere tutto sto sale a sta terra. I fiumi che sono rossi di sangue per gli morti devono tornare a essere puliti. Io ce lo voglio togliere tutto sto sangue a sta terra. Io ce lo tengo da togliere. Tutto sto sangue. Ce la tengo da togliere. Tutto sto sangue. A sta terra. A sta terra. Io ce lo tengo da togliere. Ce la tengo da togliere. Tutto sto sangue. Tutto sto sangue. A sta terra.